Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 9 gennaio, dunque l'approfondimento di Radio 24 dedicato al tema del giorno. Per noi oggi sono le carceri. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per le condizioni di vita inumane nelle nostre carceri, in particolare per il trattamento degradante di 7 detenuti nei penitenziari di Busto Arsizio di Piacenza. Ieri è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano parlando di una mortificante conferma. E voi che cosa pensate della situazione delle carceri italiane? Pensate che sia una priorità il problema delle carceri risolverlo, e come si dovrebbe risolverlo? 349 238 6666, cioè è una questione di, per esempio, non so, amnistia, e quindi con l'amnistia potrebbe risolversi la questione del sovraffollamento delle carceri? È una questione politica di scarsa capacità di decisione nel corso di tutti questi anni? Ecco, secondo voi qual è il problema? 349 238 6666, soprattutto come si deve risolvere? Quali storie nascondono i ricorsi sui quali si è pronunciata la Corte di Strasburgo? Ce lo racconta Giuseppe Rosso di Vita, è il legale di 2 dei 7 detenuti risarciti, al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali. Sono storie di disperazione umana. Per fare un esempio, i ricorrenti vivevano in celle di 7 metri quadri, al netto dello spazio lasciato libero dai letti a castello, 4 metri quadri calpestabili, e in questi 4 metri quadri calpestabili ci stavano in 3 per più di 20 ore al giorno, chiusi in questa cella, non essendo possibile svolgere alcun tipo di attività, senza bagno, con le luci assolutamente insufficienti data la presenza di sbarre davanti a delle piccole feritoie che formano le finestre. È la situazione disperata di tanta umanità che si trova in carcere e che, contrariamente alla legge, non viene privata, come dovrebbe essere appunto, solo della libertà personale, ma viene privata anche del diritto alla dignità, del diritto al vitto, del diritto alla salute, del diritto alla privacy. Che cosa significa questa sentenza? Abbiamo un timbro dell'Europa che ci dice che la situazione di violazione dei diritti umani dei detenuti è determinata da un problema strutturale. Quindi occorre risolvere questo problema strutturale delle nostre carceri, e la Corte Europea ci dà un anno di tempo come Stato, altrimenti poi saranno guai anche per le finanze dell'Italia, perché qui per 7 detenuti è stato riconosciuto un risarcimento per i danni morali di 100.000 euro, ma ci sono altri 550 ricorsi pendenti e molti altri ne continuano ad arrivare. Questo lo scrive la Corte Europea proprio nella sentenza. Teoricamente ciascuno dei 67.000 detenuti italiani potrebbe rivolgersi alla Corte Europea e ottenere giustizia. L'Italia deve cambiare politiche in materia di detenzione, deve cambiare anche politiche in materia penale. Ricordiamo che a queste carceri corrisponde un 70% di recidiva. Con le misure alternative o a carceri umane come ci sono nel resto d'Europa corrisponde il 20% di recidiva. In uno Stato differente, fare una politica carceraria che tiene conto dei diritti umani significa anche fare sicurezza per i cittadini. Avete fatto il 349 238 6666. Fasi Graziano dice: serve una costruzione di nuovi carceri, poi gli extracomunitari devono scontare le pene nei paesi di origine. Un altro nostro ascoltatore ci domanda: perché allora non fanno altre carceri? Dice Nicola. 349 238 6666, per i vostri sms. Per Alberto Gromi, che è garante dei detenuti nella casa circondariale di Piacenza, che è una delle strutture interessate da questa sentenza della Corte Europea che ha bocciato il nostro sistema carcerario, il sovraffollamento potrebbe essere subito risolto anche con le norme già esistenti. Lo ha sempre intervistato Maria Luisa Pezzali. Ci sono norme che non vengono applicate. Tutta la regolamentazione delle pene alternative non è applicata. Questo ridurrebbe enormemente il carico di persone all'interno delle strutture. E le pene alternative significano meno recidiva. Perché? È un problema di intasamento degli uffici giudiziari? È un problema di mancanza di applicazione della legge, di mancanza di attenzione, non è solo un intasamento. Di cultura giuridica anche allora? Sì, anche di cultura giuridica, certo, perché ancora oggi la pena è considerata come vendetta e non come strumento di recupero. Il famoso decreto Alfano, che poi era diventato Severino, cioè se tu hai ancora meno di 18 mesi da scontare, puoi chiedere la detenzione domiciliare. Lo svuota carceri. Esatto. Questo ha avuto un impatto debolissimo, un'attuazione debolissima, perché ci sono molti detenuti che per avere una detenzione domiciliare devono avere un domicilio e ci sono molti detenuti che non hanno più un domicilio. Allora qui è tutta la struttura sociale che deve mettere a disposizione, ad esempio, comunità, case. Quindi secondo lei avrebbe un impatto molto superiore l'applicazione delle misure ordinarie e alternative? Certo, cioè, poi studiamo altre misure, inventiamo altre cose, ma cominciamo ad attuare quello che c'è. Questo Alberto Gromi, che è garante dei detenuti alla casa circondariale di Piacenza. Cosa pensate dunque della situazione delle carceri italiane dopo che la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per condizioni di vita inumane nelle nostre carceri? È una priorità il problema delle carceri nel nostro paese? Come si deve risolvere? Qualche nostro ascoltatore dice ancora altri che hanno fatto 349-238-6666 che bisogna costruire nuove carceri. Altri invece che bisogna svuotarli, cioè in qualche modo con le pene alternative, oppure qualcun altro pone il problema dell'amnistia. Siete d'accordo? Allora vediamo l'intero sistema penitenziario che, secondo Donato Capece, che è segretario generale del SAP, che è il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, sarebbe al collasso e chiede le dimissioni dei vertici del DAP, cioè il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Perché secondo lui il sovraffollamento non danneggia solo i detenuti ma anche gli agenti chiamati a garantire la sicurezza all'interno delle carceri. Noi come sindacato abbiamo più volte denunciato questo problema. È chiaro che siamo fuori legge, che l'amministrazione è fuori legge, perché non può tenere le carceri in queste condizioni. Da un lato la polizia penitenziaria che soffre questo pesante sovraffollamento, dall'altra parte i detenuti che, altro che in socializzazione, sono in pratica considerati dei numeri ammassati uno sopra l'altro. È una gestione fallimentare. Il capo dipartimento, il dottor Tamburrino, e il suo vice capo, il dottor Pagano, devono dimettersi se hanno un po' di coraggio. In termini di sicurezza, che cosa significa per la polizia penitenziaria gestire una situazione del genere? Dove un agente deve controllare dalle 70 alle 100 detenuti, ditemi quale sicurezza può garantire. Un agente solo che vigila su 70-100 detenuti, sono sì. Questi i numeri, sì, le sì, proporzioni? Purtroppo sì. Guido da Bergamo dice: andrebbe potenziato il ricorso al lavoro per le opere pubbliche dei detenuti, così si otterrebbero due vantaggi in uno. Giulio da Pescara invoca l'amnistia. Un altro ascoltatore, credo Patrizio, da Pistoia dice che si ragiona di acqua fresca, perché Pannella è quasi morto per dire queste cose, dovrebbe diventare ministro della giustizia. E un'altra ascoltatrice dice che bisogna costruire nuove carceri, per esempio usando gli stabili prima adibiti alle caserme militari, ma non l'amnistia, altrimenti facciamo ridere, dice Mara. Alla 349-238-6666, allora avete sentito le accuse durissime del sindacato di autonomo di polizia penitenziaria. Questa è la replica di Luigi Pagano, vice capo dipartimento del DAP. Non dovrei obbligare niente a nessuno, noi stiamo lavorando proprio in quel senso lì, ma a me mi sembra che la condanna rispetto al sovraffollamento non chiami in causa direttamente i vertici, ma saremmo anche pronti, non è che abbiamo preziosa la la poltrona. Queste situazioni di degrado, una cella 2x2 sovraffollata, possono comunque essere evitate? Non è possibile, perché se noi abbiamo 48.000 posti, abbiamo 65.000 detenuti, basta fare il calcolo. Non possiamo andare oltre la fisica, non possiamo far sparire i detenuti, cerchiamo di lavorare per dargli sicuramente la possibilità di spazi migliori e di più. Non ci dimentichiamo che il governo a suo tempo, pochi anni fa, ha emanato uno stato d'emergenza, quindi grosso modo è stato riconosciuto il problema del sovraffollamento ed è stato varato anche un piano carcere che deve essere ancora completato. Oppure ci ricordiamo di pochi giorni fa lo sciopero della fame di Pannella, con tutti i politici che in qualche maniera gli davano ragione, però poi alla fine il risultato non è che è stato molto esaltante. Che cosa blocca la situazione? Perché non si può fare qualcosa subito? No, noi stiamo cercando di fare qualcosa come amministrazione penitenziaria, rivedendo un po' i circuiti e approfittando dei posti che avremo tra breve disponibili. Però sicuramente è da preferire, perché la sentenza lo indica pure, molte volte le misure alternative. Non è pensabile che noi abbiamo in carcere un 20.000 persone che hanno una pena fino a 3 anni, o addirittura 10.500 che hanno una pena fino a 1 anno. E non possono uscire perché hanno dei reati che sono ostativi. Io adatterei alcuni edifici pubblici dismessi come strutture detentive per i detenuti meno pericolosi, scrive un nostro ascoltatore. Filippo da Milano dice: bisogna indubbiamente costruire nuove carceri fino a raggiungere la capienza necessaria. Francesco dice che l'amnistia farebbe risparmiare miliardi, ma non fa guadagnare avvocati e magistrati in maggioranza nelle camere che le dovrebbero promuovere. Susi ci ricorda che sono anni che i radicali si battono per questo, non c'è una volontà politica, e chiede Susi le dimissioni di quelli che chiama politici incapaci. Finirà con una bella amnistia, dice Walter. Giorgio da Vicenza dice che gli stranieri in carcere nel loro paese domiciliare chi in attesa di giudizio. Io adatterei alcuni edifici pubblici, dunque un altro ascoltatore. Stefano da Pisa dice: sarebbe potuto sapere l'entità del reato prima di giudicare. Questi i vostri sms. Come sempre, oggi abbiamo parlato di un fatto che divide, un fatto importante come quello delle carceri, un fatto che è stato evidenziato dalla condanna da parte della Corte Europea dei Diritti Umani dell'Italia per le condizioni di vita. Siamo su Facebook, abbiamo la pagina, il gruppo ormai da molti anni, siamo anche su Twitter e abbiamo anche una mail che è controluce@radio24.it. A domani.